E allora noi dovremmo essere in diretta con Via dei Clunacensi, uno sgombero che interessa circa più di 200 persone, se non sbaglio. Buongiorno innanzitutto, anche se buongiorno è proprio una frase sbagliata. Eh sì, io temo che sia una frase sbagliata, perché questo è circa il decimo sgombero nell'arco di poco più di una settimana. Oggi tocca ai Rom Romeni di Via dei Clunacensi, una ragazza di Tiburtina. E niente, stamattina ci sono trovati la sorpresa di cagnonette della polizia municipale, Digos e quant'altro. In questo momento le persone si stanno dirigendo con quello che hanno potuto raccogliere dalle baracche, con i loro fagotti, fondamentalmente per strada, perché come sempre l'unica proposta è stata un'accoglienza provvisoria per donne e bambini e zero per diciamo i maschi adulti. Tra l'altro noi non possiamo neanche entrare, non possono entrare neanche le associazioni, e quindi questa è la situazione che ci troviamo di fronte, ennesima. Senti, qual è il, scusa insomma la freddezza della domanda, ma quale corpo di polizia urbana sta operando in questo caso? Il corpo speciale di Di Maggio, ma oppure il... Noi non abbiamo visto il signor Di Maggio. Chiaramente abbiamo chiesto un'ordinanza di sgombero e non ce l'hanno fatta vedere. Abbiamo chiesto pure insomma di qualificarsi, ma ovviamente nessuno si è qualificato. Cioè, mai siamo noi che ci dobbiamo qualificare quando arriviamo in questi posti, insomma. Adesso più che altro stiamo ragionando su dove queste persone, che si aggiungono alle ormai centinaia di persone sgomberate nei giorni precedenti, debbano passare la notte, insomma. Certo. C'è anche preoccupazione, ci sono anche parecchi bambini piccoli. Senti, l'ultimo sgombero di cui abbiamo parlato, che praticamente è successo lunedì, se non sbaglio, che era quello di vicino appunto a Cinecittà, si è concluso con la distruzione delle baracche, una distruzione insomma alla luce del sole. Di solito aspettavano un giorno, il giorno successivo, per distruggere tutto, distruggendo cose e beni di proprietà di queste persone, non dandogli neanche il tempo di poterle prendere. Sta succedendo questo anche a Via dei Clunacensi, oppure li stanno semplicemente mandando via, recintando la zona, solo per capire insomma che cosa è questa segregazione razziale, questa politica dell'apartheid, se ognuno fa per conto suo oppure hanno sempre lo stesso standard di intervento? Beh, la domanda è interessante. Sembrerebbe che non ci sia un filone diciamo unitario dietro, perché oggi invece innanzitutto non vediamo ruspe, e poi appunto tutti quanti stanno svuotando le baracche, insomma stanno, per fortuna aggiungo io, riuscendo a prendere quello che devono prendere, con qualche eccezione, perché per esempio c'erano due ragazzi che volevano prendere i generatori, che ricordiamo è l'unica fonte di luce la notte, visto che qui non c'è assolutamente allaccio alla corrente elettrica o quant'altro, e sono di proprietà di queste... I poliziotti hanno pensato bene di non far prendere loro i generatori, perché volevano che esibissero una ricevuta fiscale o uno spuntino per dimostrare la proprietà di quel generatore. Ah, come quando fermavano la gente davanti al salone con le sporte della spesa e volevano vedere lo scontrino fiscale per dimostrare... No, ma la scelta è stata anche comica, perché il ragazzo ha detto: va bene, adesso io vado a cercare da mia zia che abita a tal dei tali e cercherò di recuperare lo scontrino fiscale. Certo. E quindi noi stiamo assistendo, cioè anzi voi state assistendo, perché qui dalla radio lo stiamo semplicemente raccontando alle ascoltatrici e agli ascoltatori, al decimo sgombero di circa 200 persone, alle quali appunto viene sempre proposta l'abitazione temporanea in un posto dove si entra alle 8 di sera e si esce alle 8 del mattino, quindi fondamentalmente un dormitorio soltanto per donne e bambini. Vuoi parlare con la radio? Con la radio Onda Rossa? Vuoi raccontare quello che sta succedendo? Parli italiano? Ti passo un attimo il telefono. Grazie. Buongiorno. Buongiorno signora. Noi siamo i ragazzi che abitiamo qua a Via Tiburtina e adesso prima di Pasqua ne hanno mandato tutti fuori, via la strada, con i bambini. E senta, da quanto tempo voi abitate lì? Noi abitiamo più di 2 anni qua e adesso sono venuti oggi a noi a Romania, lo sai, oggi questo giorno a noi a Romania è una grande Pasqua, festa, un sì. Un giorno sì. Che va alla chiesa, che è chiuso. Ale Caria. Mi dispiace moltissimo. Pronto? Sì, ciao. Pronto, Marghe? Sì, sì, sì. Ma senti, io una domanda che avrei voluto fare a questa signora era: ma hanno mai avuto problemi con i residenti locali? Guarda, io te la posso anche ripassare, però intanto provo a risponderti io. Perché, sì, certo, insomma, no, perché seguiamo, conosci la zona, è chiaro che, insomma... Seguiamo, insomma, soprattutto per il discorso dell'accesso a scuola dei bambini, questo campo da un po' di tempo, insomma, e personalmente non ho mai registrato tensioni con il quartiere. Tra l'altro i bambini vanno proprio nelle scuole limitrofe al campo, insomma, e questo ovviamente sarà anche un problema per quando... dopo le vacanze ricomincerà la scuola, perché non sappiamo appunto questi bambini dove finiranno. Oltretutto se questi bambini non frequentano la scuola per un tot di giorni senza dare notizie di reperibilità, i genitori possono essere anche accusati di non rispetto dell'obbligo scolastico dei minori. Esattamente, ma sono cose poi che sono anche successe, perché diciamo è stato trovato un minore del campo in una metro senza biglietto e è risultato che non era ancora iscritto a scuola. Ovviamente adesso abbiamo anche noi dato un contributo per l'iscrizione, però tutto ciò ha determinato addirittura un provvedimento del giudice minorile che ha sospeso la patria potestà dei genitori. Adesso per fortuna pare che la cosa stia rientrando, perché il bambino va a scuola e insomma la situazione sta migliorando, però non sta migliorando invece da un punto di vista di quella che è la loro casa, perché per quanto baracche, per quanto strutture fatiscenti, ricordiamoci che queste sono delle case e quindi da un giorno all'altro la loro casa viene abbattuta. Questo è il discorso che io vorrei sempre ricordare a tutti, insomma, no? Quando si parla di situazioni invivibili e quant'altro. Adesso voglio vedere questa sera quale sarà la situazione invivibile di queste persone. Temo ben peggio, insomma, di quella che è stata fino adesso. Certo, voi che cosa pensate di poter organizzare, se volete fare un appello cittadino, se volete continuare a parlare di questa cosa anche nel corso della giornata? Guarda, noi stiamo cercando adesso di confluire comunque in un punto per fare un po' veramente un bilancio di quello che sta succedendo, e chiaramente anche queste persone hanno volontà di in qualche modo agire, mi sembra, e trovare una soluzione, anzitutto per passare la notte, perché non sanno letteralmente dove dormire, e poi credo che sia ora che comunque ci si svegli e si faccia qualcosa, insomma. Sì. Quindi sicuramente cercheremo di aggiornare su eventuali iniziative che potremo mettere tutti insieme in campo nei prossimi giorni. Assolutamente, anche perché tu parlavi giustamente, avendo il polso della situazione, stando lì e seguendo questo accampamento di esseri umani che si sono costruiti un tetto sopra la testa per non morire di freddo, e tu parlavi giustamente che non ti sembrava che ci fosse una regia, però notare che oggi oggi le scuole sono chiuse, quindi è difficile anche contattare, e questa operazione è stata fatta abbastanza, insomma, in maniera che venga messa sotto silenzio, non esaltata da una città che, almeno per quanto riguarda l'immagine che si dà di questa città, poi la città vera è un'altra, è molto più solidale, molto più reale di quella che ci raccontano giornali e videogiornali, è molto più facile che questa cosa venga passata sotto silenzio. A maggior ragione se te dici che non ci sono stati conflitti con gli abitanti limitrofi all'accampamento, è chiaro che una pensata c'è stata, ecco. Guarda, pochi raccontano poi la solidarietà che invece in certe occasioni abbiamo visto. Infatti, se le scuole fossero state aperte, io credo che, come in precedenti sgomberi, gli stessi insegnanti, gli stessi genitori dei compagni di classe dei bambini si sarebbero mobilitati, come è successo appunto in precedenti occasioni. Forse, come dici tu, oggi il tutto passa un po' sotto banco, perché abbiamo le scuole chiuse, perché abbiamo questo clima sonnacchioso da beatificazione del Papa, e quindi magari domani neanche se ne parlerà di quello che sta succedendo, cioè del fatto che più di 200 persone stanno perdendo quella che è la loro unica abitazione qui a Roma, insomma. E che tra l'altro costruiranno da un'altra parte, perché è chiaro che queste persone... Da un'altra parte, che quindi semplicemente continueranno a nascondersi e come dire, a rifugiarsi in poste sempre più lontani da un qualsiasi scambio, da una qualsiasi interazione sociale con il resto della società, e fondamentalmente in posti forse anche meno sicuri, insomma, di quindi, quelli in cui... Sì. in cui si trovano adesso. È terribile, quindi insomma l'amministrazione cittadina sta concorrendo a Roma capitale della segregazione razziale e quindi sta cercando di acquisire numerosi punteggi, perché voglio dire, tu dicevi 10, io ho introdotto la tua telefonata parlando di 7, effettivamente noi parliamo di quelli degli sgomberi che conosciamo noi. In realtà sì, perché poi abbiamo per esempio le singole baracche buttate giù qui e là, insomma ricordiamo che a Via degli Angeli hanno buttato giù una baracca, insomma l'ultimo sgombero grande è stato l'altro ieri a Via del Flauto, in cui sono stati sgombrati 300 individui, 300 persone provenienti da Craiova, insomma, quindi io credo che questa situazione non potrà andare avanti, credo che prima o poi ci sarà, spero, una risposta, insomma. Sì, prima o poi ci sarà un grande reportage della BBC che mostrerà a tutto il mondo quella, perché ormai le operazioni, diciamo, si prende atto delle cose quando il mondo intero e l'informazione internazionale ti dice che vivi in un paese dove c'è l'apartheid, come è successo appunto per Rosarno. È un paragone, sì, diciamo, sì, differente, sì, anche se fino a un certo punto, perché tutte queste persone lavorano e lavorano in nero, tutte queste persone producono reddito perché lo producono, tutte queste persone consumano, che ne so, a me viene in mente il fatto che a Centocelle hanno chiuso dei negozi alimentari che vendevano generi alimentari da quando è stato sgomberato Casilino 900. Mi viene in mente. Sì, hai perfettamente ragione, insomma, sul fatto che lavorino nessuno lo mette in discussione, insomma, a me è capitato di parlare con dei ragazzi che staccavano, insomma, a sera inoltrata dal loro lavoro, e parliamo di lavori dignitosi come tanti altri, semplicemente non c'è un contratto, semplicemente c'è magari semplicemente più sfruttamento rispetto ad altri tipi di lavoro, proprio perché in nero, proprio perché senza contratto e quant'altro. Non so se vuoi parlare con un'altra signora, Rossa, se loro vogliono, vuole lasciare una dichiarazione alla radio, vuole raccontare quello che sta succedendo. Parla italiano? Un poco parla, non parla molto. Se vuole le passo un attimo la radio. Disperate perché no. Buongiorno. Buongiorno signora. Scusa signorina, bella, non lo sa, adesso sono disperata, non lo sa dove te abiti, in casa. Io sono qua mio marito, un mio bambino di 15 anni. Adesso Cristiano lo sa che si qua carabinieri, si qua mamuto, ne paura di loro. Certo. Capito come si quando sei straniera. Che multa hanno fatto, signora, scusi? Come? Hanno chiesto solo i documenti, ma hanno distrutto. I documenti sì, la mio, non mi ha preso documento, non mi ha preso niente, né ci sono né mio marito né il documento sì, proprio a noi. Ho capito. Mi ha tornato il documento. Hanno solo controllato. E non lo sa dove è tornato, signorina bella, non lo sa, che sono disperata, non lo sa, adesso lo sa come si, quando non conosce la zona, non conosce niente. Certo. Alla sera non lo sa dove dormire, le bambinanza, capito come si, quando sei straniera. Quando sei senza casa, soprattutto. Quando non sei lo sa, signora, senza casa, dove senza casa. Certo. Hanno trovato questa giorni, hanno trovato la senza casa, una da abitare, non c'è niente. Hai cercato e non trovi niente. Come ti fare, bella? Come dici tu te fare noi? Questo è una bella domanda, bisognerebbe avere tutti le case, bisognerebbe prendersele le case arrivato a un certo punto. Possono cercare, tu possono aiutare con una stanza. Di questo ne parliamo dopo, se tu mi passi Christian, di questo ne parliamo dopo. Sì, Christian sì, qua. Ok, grazie. Parlare con Christian. Grazie. Pronto, eccoci. Ecco, e naturalmente l'unica cosa che le persone chiedono quando gli viene distrutta la baracca è: tu conosci qualche casa dove posso andare? E questo a me, a parte il fatto che è di una è fortissima come emozione, dà proprio l'idea di quanta impotenza ci sia, perché sì, forse ormai è anche della impotenza in qualche modo purtroppo raggiunta, insomma, no? Perché forse un tempo, diciamo, chiamiamolo sotto proletariato, sapeva forse anche un po' più organizzarsi e rispondere collettivamente a situazioni di questo tipo, invece adesso forse c'è quasi la desolazione, quasi la rassegnazione, insomma. E quindi staremo a vedere cosa succederà, insomma, nelle prossime ore, nei prossimi giorni. Va benissimo, chiaramente. Va benissimo, tra virgolette, insomma. Sì, ci risentiamo sicuramente presto. E se voi volete lanciare un appello a una riunione a cui può partecipare anche qualche compagno, qualche compagna che volesse raggiungervi, possiamo. Sì, guarda, io sto aspettando delle conferme, insomma. Perfetto. Però forse già in giornata potrebbe esserci. Benissimo. Qualche appuntamento, insomma, quindi vi terremo aggiornati. Benissimo, e noi siamo qua. Grazie della corrispondenza, e dopodiché ci sentiamo un attimo in privato. Grazie mille. Ok, rimango in linea. Sì, ciao sì. A tutte e tutti. Ciao.